Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a parlare di Open Data stasera perché è appena stato pubblicato il dataset sui beni culturali del Lazio. Quindi in questo caso parliamo di un Open Data concluso, disponibile per chi volesse utilizzarlo. Chi l'ha pubblicato? L'ha pubblicato Filas, la finanziaria della Regione Lazio per lo sviluppo. Di che cosa c'è dentro, di come potrà essere utilizzato? Parliamo con Maria Rita Minelli, che è responsabile del distretto tecnologico dei beni culturali. Buonasera Minelli. Buonasera. Allora Minelli, ci dica qualcosa un po' in generale intanto di questo dataset. So che sono più di 2000 i punti di interesse inseriti dentro. Che cosa ci si trova in questo grande database che, ricordiamo appunto, è un database pubblicato in 4 formati diversi, chiunque se lo può scaricare e può utilizzarne i contenuti. Dunque, questi sono dati che sono stati resi open, quindi disponibili, riutilizzabili, ripubblicabili, eccetera, e sono presenti sul portale, che è l'infrastruttura del distretto tecnologico, che è futuring.it.eu, e sono anche disponibili sul portale governativo degli Open Data, che è dati.gov.it. Che cosa contengono all'interno? Essenzialmente contengono dei punti di interesse culturale in generale. Quindi un punto di interesse culturale può essere molto semplice, come una denominazione e delle coordinate geografiche. Sì, quindi essere, per dire la cosa più banale del mondo, sarà il Colosseo, ci sarà nome, certo, Colosseo. L'identificatore, poi ha delle coordinate geografiche, perché così si può posizionare su una mappa geografica, si può vedere dove è fisicamente, no? E poi può essere invece più complesso. Potrebbero essere dei poi che sono contenuti in altri poi, per dire, se un punto di interesse culturale è un museo, all'interno del museo ci sono le opere che sono altri poi, che sono figli del punto di interesse padre, quindi possono avere una struttura anche più complessa. Ecco, che tipo di informazioni troviamo relativamente a ognuno degli oggetti che ci sono dentro, sia esso il Colosseo, sia esso, non so, un museo? Allora, il POI ha in generale, oltre a un identificatore, degli attributi che sono anche chiamati metadati. Questo POI è point of interest, punto di interesse. Point of interest, esatto. Questi metadati descrivono il dato in se stesso, quindi per esempio ci sono delle categorie associate. Io, se sto parlando di un punto di interesse culturale di tipo archeologico, quindi dirò che questa è la categoria che lo caratterizza. Piuttosto che un bene architettonico, un palazzo, delle mura, un sito, gli edifici religiosi, che cosa sono? Può essere una basilica, una cattedrale, un'abbazia. Quindi i metadati vanno a definire il contesto in maniera da specificare, diciamo, meglio. Sono il dato. Quei dati che si mettono dentro a questi database per rendere possibile fare delle ricerche sostanzialmente e cercare fare delle scremature. Poi però immagino ci sia anche una descrizione, non so. Esattamente. Dire, la storia del Colosseo ci sarà lì dentro, no? Sì, che può essere in uno o più lingue, una breve descrizione. Ci sono dei metadati che indicano il periodo storico, il Medioevo, oppure dal al. Poi c'è un indirizzo, un numero civico, ci sono le coordinate geografiche per rappresentarlo appunto su una mappa geografica, certo. C'è la licenza, cioè c'è un campo che dice proprio qual è il tipo di licenza, chi è il detentore di diritti, quindi tutti questi metadati sono associati al POI in se stesso. Inoltre, al punto di interesse, chiamiamolo così perché sennò si capisce punto di interesse, ecco. Esatto. Inoltre questo punto di interesse può avere associato una rappresentazione multimediale, potrebbe essere una piccola immagine, una thumbnail, oppure potrebbe essere un'immagine ad alta risoluzione, grande, oppure un virtual tour, un virtual book, un'audioguida, un'immagine, certo, di tipo gigapixel, che posso ingrandire fino ad arrivare al rapporto 1:1, se è per esempio un dipinto, certo, cose del o genere. Un oggetto magari piccolo. Ecco, senta, avere il 3D, la ricostruzione, certo, 3D. Sarebbe molto interessante. Certo. Senta, ok, abbiamo capito che c'è dentro praticamente tutto. A questo punto, chi vi aspettate che utilizzerà questi dati? Questi dati sono disponibili a tutti, quindi a programmatori, aziende, persone normali, che possono utilizzarli per ripubblicarli, farci delle applicazioni di mobilità, oppure integrare questi dati nei loro web, nei loro siti e portali. Faccio un esempio banale, se ci sono delle strutture che vogliono incrementare il turismo e quindi nel loro portale indicano, non so, bed and breakfast, agriturismi e hotel, certo, possono prendere tutti i dati relativi a punti di interesse culturale nelle vicinanze, certo, così rendono l'offerta più ricca. Ecco, questo è un esempio assolutamente classico. Chiunque vorrà utilizzare, esatto, a fini di promuovere la propria attività, magari legata al, esatto, turismo, le informazioni di carattere culturale, le troverà già pronte, belle fatte. Esatto. Dovrà solo ripubblicarle. Pronte e utilizzabili, certo. Poi a un certo punto, diciamo, l'immaginazione consente quasi tutto. Voi avete fatto anche un concorso di idee, sono venute fuori idee meno tradizionali di questa che stavamo dicendo. Sì, c'è stato un gruppo di ragazzi, di giovani ragazzi, che ha fatto una proposta molto interessante e ha, diciamo, proposto un modulo hardware alimentato a pannelli solari che praticamente include un microprocessore con cui gestisce dei sensori ambientali. Questa scheda si viene messa nei punti, diciamo, nei siti archeologici, nei punti di interesse culturale e trasmette via wifi o via internet, eccetera, i dati ambientali, per esempio, dei siti culturali, quindi la temperatura, l'umidità, quindi per sapere, non so, i dati atmosferici. In più, questa stessa diciamo, scheda è connessa anche al sistema PayPal. Quindi faccio un esempio, si potrebbe ad un monumento che è in restauro associare quindi un totem con questa scheda e la persona che sta sul luogo potrebbe fare delle donazioni, per esempio per il restauro. Può decidere di lasciare un euro, però diciamo, sì, che se un milione di persone passano lì davanti, un euro alla volta, insomma, può anche venire fuori una cifra consistente. Al restauro, alla fine ci sarà il tuo nome insieme a tutti quelli che fanno una donazione, quindi una sorta di crowdfunding. Grazie Maria Rita Minelli. Grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.